La politica alla prova. La politica alla prova, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Vigilia del voto della giunta per le elezioni, animata dall'attesa per il video di Silvio Berlusconi. Un video che avrebbe rotto il silenzio che il Cavaliere sta osservando da alcune settimane. Sembra a questo punto che l'atteso messaggio dell'ex premier slitti a domani. Secondo alcune fonti, Berlusconi confermerebbe le sue accuse alla magistratura senza però arrivare a togliere la fiducia al governo Letta. Sarebbe anche l'occasione, il video, per il via libera ufficiale al ritorno di Forza Italia. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. In attesa dunque del video di Berlusconi, veniamo ai lavori della giunta per le elezioni. Si è chiusa la discussione generale, è stata considerato irricevibile inoltre il cosiddetto lodo Buemi dal nome del senatore PSI che proponeva di rinviare il voto e di istituire un comitato inquirente per approfondire ulteriormente la questione. Sentiamo allora Buemi. Credo che su un punto concordiamo: la difesa dell'autonomia del Parlamento e la difficoltà di poter digerire l'ingerenza della Severino. Ovviamente le posizioni sono ancora distanti, però ripeto, il lavoro che si sta facendo al giglio per mettere in sicurezza la nave posta Concordia, qui la fatica forse è maggiore, quella di mettere in sicurezza la nave Italia e mettere il Parlamento nella sua completa autonomia rispetto alle ingerenze che arrivano da varie parti. Le sentenze devono essere eseguite, però bisogna eseguirle rispettando la legge, e la via che ho indicato è la via della legge maestra, la sentenza, la interdizione dai pubblici uffici che è già stata pronunciata, il suo differimento al giorno in cui la Corte d'Appello di Milano, eventualmente la Corte di Cassazione, diranno 1, 2, 3 anni di interdizione. Queste dunque le ragioni del senatore Buemi del Partito Socialista Italiano, ragioni che sono state respinte dalla giunta, il perché dalle parole nell'ordine di Della Vedova, Scelta Civica e Casson, Partito Democratico. Sentiamo. Era una proposta procedurale che avrebbe avuto forse un senso all'inizio della procedura, poi invoca un gentleman agreement, sicuramente non mancano i gentlemen, arrivare a un agreement a questo punto e a un'unanimità sarebbe piuttosto complicato. Comunque su questo il Presidente è stato netto nel dire che a suo avviso non era ricevibile. Credo di dover essere assolutamente d'accordo, perché è una proposta che è al di fuori del regolamento della Giunta e del regolamento del Senato. 349-238-6666, il numero per i vostri sms. Di nuovo Forza Italia, ok, cos'è un partito in più da pagare? Ottimo, scrive ironicamente un nostro ascoltatore. Mi scrivete anche del messaggio di Berlusconi, di cosa potrebbe contenere, lo abbiamo anticipato, ma lo facciamo ripetere a Fabrizio Cicchitto, PDL, intervenuto a Rai News. In questo videomessaggio ci sarà una rivendicazione dell'azione politica che Berlusconi ha svolto nel corso di questi anni, una risposta polemica all'attacco giudiziario che, modificando gli elementi fondamentali dello Stato di diritto, si è scatenato contro di lui dal 1994 ad oggi, una rivendicazione di innocenza rispetto a questa sentenza e poi una riflessione sulla necessità di una svolta nella politica economica e sociale del Paese. Questi dunque i probabili contenuti del video del Cavaliere, ma qual è lo stato d'animo di Berlusconi in queste ore, la sua permanenza ad Arcore? Il video annunciato e poi rinviato, lo abbiamo chiesto all'onorevole Galan, sempre del PDL. Io non vedo un tentennamento delle ultime ore, io vedo purtroppo un tentennamento del partito negli ultimi 2 anni. E mi domando se la linea che abbiamo seguito abbia prodotto qualcosa di utile per il Paese prima e poi per il PDL e poi per Berlusconi. E la risposta che mi do è no, abbiamo sbagliato tutto. Quindi anche il governo di larghe intese è un tentativo sbagliato secondo lei? Senta, noi siamo scesi in campo quella volta con alcune convinzioni e per portare una ventata nuova nella politica, l'abbiamo fatto. Fra queste convinzioni e quella ventata nuova un posto di preminente rilievo ce l'aveva l'adesione al sistema maggioritario. secondo il quale, come nelle democrazie di tradizione anglosassone principalmente, chi vince governa e chi perde fa l'opposizione, senza drammi, senza tragedie, senza persecuzioni all'uomo. Non è stato così. Il governo di Langhe-Intese si giustifica con qualcosa di eccezionale, ma voglio anche sperare che prima o poi finisca e si ritorni a quello che è stato un sogno. Lei che conosce dalla prima ora Berlusconi, cosa pensa che farà rispetto alla decadenza? Non farà qualcosa di normale e dopo si può sbagliare, perché interpretare i pensieri di un uomo in quei momenti è difficile, di un uomo complicato, complesso come Berlusconi. Però se lo conosco bene, non aspetterà che uno Stefano lo giudichi la sua decadenza e lo anticiperà. Fin qui il Popolo della Libertà, abbiamo ascoltato Galan, passiamo al Partito Democratico, alle prese con il voto sulla decadenza di Berlusconi, ma non solo, vi è poi l'attivismo di Renzi e la corsa per la segreteria. Sentiamo allora una fedelissima del sindaco di Firenze, Lorenza Buonaccorsi. La posizione del PD è assolutamente chiarissima, noi voteremo per la decadenza di Berlusconi. E punto, cioè, abbiamo già detto dall'inizio. Ci sono un po' di voci che parlano di franchi tiratori che potrebbero intervenire. Allora, mi dispiace tanto, ma proprio ritengo che siano voci ingiustificate totalmente. Poi pure questa cosa veramente un po' meschina, lo dico senza paura di provocazione, di continuare a tirar fuori, soprattutto da parte dei nostri avversari politici, l'ombra dei 101, i franchi tiratori. Allora, veramente meschina. Il PD ha una posizione. Quello che sono le discussioni interne al Partito Democratico sono all'interno del Partito Democratico, e meno male che all'interno del Partito Democratico si discute, a differenza di tanti degli altri partiti che ci sono in Italia. Quelli sono fatti nostri. Sulla questione di Berlusconi siamo stati chiari, quella è la posizione del PD, punto. L'assemblea di sabato dovrebbe fissare la data del congresso, molti criticano l'attivismo di Renzi di questi giorni. Io mi preoccuperei più dell'attivismo di Renzi, della passività degli altri dirigenti del mio partito, quindi forse, cioè, ovviamente lo dico io, quindi ben venga l'attivismo di Renzi, perché noi questo partito lo dobbiamo costruire, aprire, far diventare un partito proiettato verso il futuro e non restare abbarbicati a cose che non sappiamo bene del passato, quindi ovviamente ben venga l'attivismo di Renzi. Le elezioni eventuali, Renzi le vuole, le volete? Ma io credo che elezioni adesso ovviamente sono problematiche per quello che abbiamo già detto. È chiaro che se però dobbiamo vivacchiare e essere in una situazione in cui non si fa nulla e questo governo non affronta i problemi e non scioglie nodi importanti, beh, allora abbiamo sempre detto anche questo, noi meglio andare alle elezioni. Dopodiché però, appunto, prima di tutto preoccupiamoci di questo paese, delle cose serie e gravi. E così Lorenza Buonaccorsi del Partito Democratico. Tanti vostri sms che non riesco però a leggere, me ne scuso, e per la politica alla prova mi fermo qui. Un saluto da Vincenzo Miglietta.